Ufficio Inca. Reddito minimo di garanzia. Ultima frontiera prima d'andare via. Reddito minimo. Ufficio Inca. Della tanto decantata autonoma provincia. Mi alzo presto apposta per arrivare primo. Mi siedo, aspetto con in mano il numerino. Arriva un altro tizio, il tipico cretino. Conosce tutto e quindi non fa fila, entra per primo. Faccio il signore, fingo di incassare, augurandogli soltanto un herpes inguinale. Fondo poco male, prossimo sono io. Ma poi c'è la detta e le mie speranze addio. Faccio passare loro, dice la poveretta. Sono arrivati ora, ma hanno tanta fretta. Comincio a ribollire, perché porca puttana, nemmeno io sto qui per godermi il panorama. Ufficio Inca. Non si tratta di efficienza, o della cronica carenza. Trattasi di deficienza. All'ennesima potenza girano col Porsche Cayenne ed intascano la Strenna. Lassù negli uffici Inca dell'autonoma provincia è una giungla. Jobs varrebbe niente, anche affamato follemente, qui si insegna il vecchio andante, stai più gordo e stai ignorante. Stai più ingordo e stai ignorante. E dopo un'altra senza una meritata pausa mi fa segno d'entrare ed esporre la mia causa. Non mi guarda in faccia, armeggia un po' nervosa. Mi siedo ed aspetto, mi rivolga la parola. C'è scritto qui che lei risulta indigente. Sarà mica di quei che hanno voglia di far niente. Rispondo che per guadagnarmi il pan non sono mai stato con i man in man. Lei dice questa legge per poter funzionare prima di ricevere lei dovrebbe versare. Se non hai contributi è meglio che mi ascolti. Può sempre ripiegare su bel taglio dei polsi. Mi guarda preoccupata che potessi darle retta. La rassicuro, non per me, per la sua camicetta. Mi alza a questo punto, la dignità è la mia e vale più del reddito e di ogni garanzia. Non si tratta di efficienza, o della cronica carenza. Trattasi di deficienza. All'ennesima potenza girano col Porsche Cayenne ed intascano la Strenna. Lassù negli uffici Inca dell'autonoma provincia è una giungla metropolitana di bucati figli di puttana. Qui Steve Jobs varrebbe niente, anche affamato follemente, qui si insegna il vecchio andante. Stai più ingordo e stai ignorante. Stai più ingordo e stai ignorante. Che vedrai, andrai.